Amori dell'anima, in regia è sottoscritto Roland, non c'è stasera Donatella che salutiamo, che non può esserci purtroppo, però abbiamo due ospiti qui in studio, ci sono Daniel, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E Francesca. Ciao, ciao a tutti. E sono qui con me per parlare con di un tema molto importante, direi. Infatti vi comincio, insomma vi butto là per iniziare soltanto qualche dato che forse è bene per iniziare, cioè a gennaio 2013 si rapporta che il 37% dei giovani italiani è senza lavoro. Un altro dato importante è che oltre 2 milioni hanno lasciato il nostro paese solo dal 2010, cioè negli ultimi 3 anni. E questa in pratica è una buona introduzione all'argomento, cioè la situazione dei giovani in Italia oggi. E Daniel e Francesca, che sono con noi questa sera, sono del gruppo Giovani di Bruxelles, un'iniziativa nata di recente. Potete introdurci brevemente questo gruppo, ragazzi? Sì, io innanzitutto volevo chiarire il nome, Giovani Italiani Bruxelles. Scusate. Ma ci teniamo perché a Bruxelles ci sono così tanti gruppi diversi, culturali, giovanili, e noi quando cercavamo un nome un po' originale per il gruppo, in realtà abbiamo deciso di lasciare questo, che era generale ma che comprende un po' tutti e un po' tutto. E con Daniel, che è un amico oltre che un collega, prima delle elezioni italiane del 2013, a febbraio, volevamo creare qualcosa di interessante, ma che non fosse solo un gruppo di discussione preelettorale, ma che fosse anche un posto dove effettivamente i giovani italiani che come noi sono fuori dall'Italia potessero discutere e approfondire certi temi che stanno loro a cuore. E quindi ci siamo detti perché non guardiamo insomma i candidati delle elezioni, chi effettivamente si rivolge ai giovani, chi vuole considerare, mettere i giovani al centro. E che risposta, insomma, che risposta avete trovato? Che cosa si faceva per i giovani? Ma si faceva ben poco, io non so come la pensa Daniel. Sì, ma beh, come sappiamo tutti, ci sono una cosa molto famosa in Italia, una bella canzone, non so se lo metti dopo, parole, parole, parole. Cioè, come sempre, la politica italiana è un po' così. E nonostante che i candidati, direi, italo-belgi che ci sono presentati qui a Bruxelles, in Belgio, vabbè, hanno parlato molti di giovani, di qua, sono importanti, però a livello di proposte concrete per noi, perché noi vogliamo anche tornare in Italia, non ne abbiamo sentite purtroppo. Quindi con questo gruppo vogliamo anche elaborare delle proposte politiche per la nostra generazione. Ecco. Quindi adesso, nelle prossime settimane, stiamo cercando di organizzare un evento al Parlamento Europeo, e invitiamo tutta la comunità italiana qui in Belgio, anche Bruxelles, di partecipare attivamente a questo evento. Ecco. Sì, io direi che per tornare un pochino indietro, insomma, una volta passate le elezioni, tutti sappiamo come sono andate queste elezioni, ci siamo detti, ma allora cosa facciamo? Continuiamo questa discussione che sembrava molto interessante. Abbiamo scoperto che molta gente, molti giovani, e non abbiamo in realtà limiti di insomma, giovane età, una persona giovane dentro, quindi, però principalmente giovani che sono usciti dal loro paese per lavoro, per studio, per scelta o per obbligo. Questi giovani a Bruxelles, ma anche fuori dal Belgio, insomma in molti paesi d'Europa, hanno interesse a parlare di questi temi e soprattutto si lamentano, come anche si lamentano i giovani italiani, ma perché hanno visto anche cose diverse, hanno magari qualche idea in più, riescono a vedere la realtà con un occhiale diverso, con una lente diversa. E qual è, diciamo, la problematica più forte, cioè, che avete riscontrato, cioè, che avete voi, ma che magari anche sono le cose che più vengono menzionate dai giovani che riuscite a coinvolgere? Sì. Beh, innanzitutto direi che il problema principale sarebbe quello della indifferenza politica verso i giovani in Italia, nel senso che non sono una priorità per la politica, si parla di tutt'altro tranne loro, e quindi per noi c'è, cioè, ovviamente stiamo parlando di, in Italia adesso attualmente c'è una grande crisi, è una crisi del lavoro, cioè la crisi per i giovani è questo. Tanti giovani italiani sono molto qualificati, adesso si stanno laurando, diverse, escono dall'Italia, fanno esperienze, però poi non, purtroppo non c'è lavoro in Italia, quindi questo è il problema principale e noi vogliamo cercare delle proposte per cambiare questa situazione. Sì, per fare in modo che chi è fuori possa tornare se vuole, e per chi invece è in Italia che ci siano opportunità importanti e interessanti, soprattutto che non ci si debba accontentare di lavori diversi da quello che insomma è stato il background di studi. Tanti giovani come noi hanno una laurea in un certo settore e poi lavorano in tutt'altro, oppure non lavorano assolutamente proprio utilizzando il loro titolo di studio, e a noi non sembra giusto, non sembra una cosa corretta per un paese che ha bisogno di giovani generazioni per ripartire, perché l'Italia è in crisi non solo dal punto di vista occupazionale, ma è in crisi in generale, è in crisi politica, crisi sociale. Quindi noi pensiamo che i giovani siano una risorsa. Certo è che se non si inverte la tendenza, i giovani se ne vanno e non lavorano per il proprio paese. L'Italia è un paese che invecchia. L'Italia è un paese che ha, dove si vive bene, quindi anche dove gli anziani vivono bene, però in cui i giovani non riescono a trovare il loro spazio. E secondo noi è un peccato, perché è un paese dove si vive veramente bene, anche i giovani probabilmente vivrebbero molto bene, vivrebbero felici di, insomma, di fare qualcosa per un paese dove si sta bene, dove c'è il sole, si mangia bene, si sta insieme. E io penso che molti italiani a Bruxelles, dopo un po' di tempo passato qua, si rendono conto che anche queste cose sono importanti. Certo. E prima di, insomma, prima che passiamo agli argomenti e anche alle proposte concrete che fate, volevo chiedervi, cioè, come rispondono i giovani italiani qui a Bruxelles e forse anche altrove, cioè, che armi utilizzate per mobilitarli, cioè si mobilitano? La risposta è sì, la risposta è molto positiva, perché già vediamo che siamo stati invitati stasera a Radio Alma già per parlare di questi temi e non conoscevamo voi prima, quindi già cosa abbiamo fatto per creare questa attività? Abbiamo usato le medie di comunicazione moderne come Facebook, come Twitter, social media, abbiamo organizzato un primo incontro in un bar a Bruxelles per parlare giustamente in un ambiente informale di questi temi e poi da lì abbiamo trovato un posto dove fare le riunioni e direi veramente, cioè, la risposta è stata molto positiva. Ogni settimana iniziano a venire sempre più gente, più persone con tante idee e cioè, noi la facciamo questa cosa, facciamo dopo il lavoro, è una cosa volontaria, però è una bella soddisfazione vedere così tanta gente che vogliono fare qualcosa. Ecco, visto che è importante mobilitare, magari cominciamo prima di lanciare il prossimo brano un attimo a ricordare indirizzi Facebook e Twitter. Francesca? Allora, io vi consiglio di cercare in Google Giovani Italiani Bruxelles e siamo attualmente il primo risultato, quindi è un sito. Ottimo risultato. Sì, poi chiaramente su Facebook, quindi la pagina Facebook www.facebook.com Giovani Italiani Bruxelles. E poi vi racconteremo, abbiamo anche un'altra pagina che è legata a Giovani Italiani Bruxelles che si chiama Appello Giovane, e anche su YouTube c'è un video, ma poi magari vi raccontiamo dopo il brano musicale in dettaglio, e parliamo di andremo a ascoltare un brano bellissimo di Morgan che, come sentirete, ha a che fare anche con il tema di stasera. Dalle pose, dalle posizioni, i colori dell'anima. State ascoltando Radio Alma 101.9 e anche i miei ospiti di stasera sono andati altrove. Francesca e Daniel sono con me per parlare della problematica, comunque della situazione dei giovani in Italia, i tanti giovani che vanno all'estero e spesso non si trovano nelle condizioni di poter tornare, e quelli che rimangono soprattutto in Italia anche si trovano in difficoltà di svolgere insomma lavori che corrispondono al titolo di studio, eccetera eccetera. E infatti proprio di quello vogliamo continuare a parlare, perché questi ragazzi hanno sviluppato una serie di proposte concrete per la politica italiana, per fare qualcosa per migliorare la situazione. E appello giovane, termine chiave, che cos'è l'appello giovane e insomma di che tipo di proposte parliamo, Francesca? Dunque, l'appello giovane è un prodotto, se vuoi, un ramo di Giovani Italiani Bruxelles che è nato per cercare di proporre qualcosa di positivo, di nuovo, ai politici che noi volevamo interpellare prima delle elezioni. Cioè, oltre a interessarci dei programmi che questi politici presentavano, sia a livello italiano che a livello liste estero, circoscrizione aire, perché chiaramente molti di noi a Bruxelles qua votano nelle liste estero, ci siamo detti, noi diamo un'occhiata ai programmi, che come abbiamo detto erano un po' deludenti, però allo stesso tempo perché non proviamo a mettere insieme un po' di idee, qualcosa di concreto da presentare a questi politici, e insomma con la richiesta magari nel caso in cui fossero eletti di sostenere queste proposte, magari inserirle nei loro programmi reali. E quindi ci siamo appunto trovati con il gruppo, con i ragazzi di Giovani Italiani di Bruxelles, che salutiamo, che sono parecchi, sono una ventina molto attivi, e poi diciamo 40-50 sostenitori in generale, più tutti i fan di Facebook, che insomma non li contiamo, sono veramente tanti, siamo quasi a 500 sostenitori. Insomma, le persone attive del gruppo hanno cominciato a discutere e hanno radunato 5 temi fondamentali, 5 proposte che sono temi assolutamente importanti in Italia, ma che sono sentiti anche qua all'estero, a Bruxelles, come potrebbe essere a Londra o a Parigi. In particolare 5 proposte che adesso vi elencherò, che sono poi state sviluppate, cioè noi abbiamo individuato con alcuni titoli, e per esempio la prima che ci è sembrata molto, molto importante e fondamentale è un maggiore investimento nell'istruzione e nella ricerca, cioè per ripartire dai giovani l'Italia deve ripartire dall'istruzione, deve ripartire dall'università, ma anche in generale dalle scuole, gli istituti di formazione e proprio dalla scuola. Quindi noi vorremmo e chiediamo ai politici tutti, al futuro governo italiano, di rimettere al centro della politica la scuola e l'università, con investimenti pubblici e standard di qualità in linea con la media europea. Ecco. E vogliamo come si rende, diciamo, lo studio accessibile a tutti? Ma lo studio accessibile a tutti innanzitutto con un investimento nelle strutture pubbliche, nelle università pubbliche, nella scuola pubblica. Questo è venuto fuori dalle nostre conversazioni, dalle nostre esperienze. Molti di noi hanno studiato in università pubbliche, altri in università private, e riteniamo che a tutt'oggi l'Italia formi delle persone molto competenti, però non sia poi in grado di trattenerle al suo interno. Quindi perché formare con soldi pubblici, perché anche le università private prendono finanziamenti pubblici, certo, dei giovani che poi lasciano il paese, che non sono più una risorsa per il paese. Un altro punto importante, che è molto molto sentito ultimamente proprio da tutti questi giovani che scappano perché non riescono a trovare lavoro, è proprio questo passaggio dalla scuola, dall'istruzione al mondo del lavoro. Cioè, che cosa succede a un giovane laureato quando deve mettersi a cercare lavoro, quando deve entrare in questo mondo strano e complicato? In Italia purtroppo in molte università non c'è nessun tipo di sostegno. Cioè, gli uffici, organizzazioni che dovrebbero occuparsi di dare una mano ai giovani nella ricerca di un primo impiego non sono efficienti o proprio non esistono. Quindi il giovane si trova da solo in questo labirinto e poi molto spesso decide di lasciare il paese. Ecco. Visto che il vostro gruppo è anche un gruppo che insomma è andato all'estero, che magari ha anche studiato all'estero, cioè ci sono anche delle differenze che si vedono con gli altri paesi europei e che vi fanno dire Italia è proprio ora di cambiare? Cioè, questo fa parte della vostra riflessione? Certo, per esempio io sono nato e cresciuto all'estero, come tanti italiani, italo-belgi che saranno anche ascoltandoci stasera, e adesso Belgio è il terzo paese in cui vivo, ho vissuto in Inghilterra, in Spagna, ho visto un'altra realtà completamente diversa. Cioè, per esempio, in Italia una cosa che vedo, c'è un problema molto per i miei cugini, la mia famiglia in Italia, i giovani, è il mondo dello stage. Il mondo dei tirocini, che molto spesso non sono pagati, che è un sistema di sfruttamento. C'è gente che sta lavorando gratis anche per anni, per esempio in studi legali o anche come giornalisti precari, che che non sono pagati per questo stage. In Belgio c'è anche all'interno delle istituzioni europee c'è anche questo problema, che ci sono molti stage non pagati come primo prova di lavoro. Però in Belgio c'è una situazione contrattuale migliore, nel senso che c'è il contratto stage mentre che sei un studente all'università, e poi c'è un altro tipo di contratto, che è il contratto di immersione professionnelle, che prevede che una persona viene pagata anche 600-700 euro per diciamo un primo lavoro di prova, e poi non puoi più estendere questo contratto per più di un anno, mi sa, che se ho capito bene, forse mi sbaglio, però già c'è un limite di tempo che una persona può lavorare con un stipendio basso o può lavorare gratis. In Belgio non viene accettata questa cosa per anni e anni, però in Italia purtroppo c'è un mercato di questi stage che invece di offrire contratti di lavoro, cioè, stanno offrendo un contratto di stage in continuazione, che è una cosa sbagliata. E voi, che a questo riguardo, che cosa proponete? Cioè, che cosa dovrebbe cambiare la politica italiana? Ma in particolare su questa fase dell'apprendistato noi chiediamo che se il tirocinio non viene retribuito, rimanga un tirocinio all'interno del percorso formativo. Cioè, si possono fare stage non retribuiti che comunque servono all'esperienza di uno studente quando lo studente è ancora studente. Dopo la fine degli studi ci deve essere una retribuzione che garantisce al giovane di mantenersi, comunque non retribuzione al di sotto della soglia di povertà minima, che nelle città metropolitane italiane sta calcolata 800-850 euro. Quindi lavorare full time o a volte part time, ma soprattutto full time, pagati meno di 800 euro al mese è veramente inaccettabile. Poi chiaramente lo stage, se finalizzato alla formazione, deve formare, non deve sostituire un contratto di una persona che magari aveva un contratto regolare, è stata licenziata e poi per risparmiare l'azienda o l'organizzazione prende uno stagista perché è più conveniente. Cioè, vogliamo che la legislazione garantisca i giovani studenti che fanno i primi apprendistati o i giovani lavoratori che entrano nel mondo del lavoro. Ci deve essere una legge che tutela, ma non una legge che però poi impedisce, per esempio, i rinnovi. Adesso con l'ultima legge Fornero, per esempio, molti contratti di apprendistato si sono conclusi e non sono stati rinnovati. Purtroppo molta gente ha perso il lavoro perché non potevano essere assunti con contratti diciamo più sicuri. Sì, l'azienda non poteva rinnovarli, quindi ci sono purtroppo dei limiti e queste cose vanno studiate, ci sono dei limiti diciamo economici anche, però noi pensiamo che si possano trovare delle soluzioni. Ecco, visto che insomma è interessante che hai toccato questo punto dei limiti, perché per esempio guardiamo un attimo, faccio l'avvocato del diavolo, pensiamo ai datori di lavori che magari dicono noi già insomma abbiamo cioè il peso fiscale è altissimo in Italia, noi non ci possiamo permettere di retribuire per esempio gli stagisti a 800 euro al mese, cioè noi la nostra politica interna è così perché non ci permettono di fare altrimenti. Cioè, che cosa dite voi, che cosa può fare la politica italiana per cambiare anche qualcosa da questo punto di vista? Allora, noi a questo proposito vogliamo anche citare una risoluzione che è stata votata dal Parlamento europeo recentemente, che si chiama Garanzia Giovani, Youth Guarantee, che appunto garantisce a 4 mesi dalla fine degli studi o l'offerta di un lavoro retribuito oppure un'offerta formativa, cioè il giovane neolaureato può o continuare a formarsi oppure avere un'offerta di lavoro concreta, reale. Questo è stato messo al centro diciamo delle nostre proposte. Quello che tu chiedevi, Roland, era legato agli incentivi per le aziende all'assunzione giovanile. Cioè, è chiaro che se io assumo dei giovani devo avere degli incentivi fiscali ci deve essere un modo che agevoli insomma questa assunzione dei giovani, per cui per le aziende che decidono di fare questo investimento l'agevolazione fiscale, per esempio, nei primi, non so, 5-6 anni dovrebbe essere garantita. Ritornando alla garanzia giovani, che è diciamo più su questa proposta che riguarda la formazione e l'ingresso nel mondo del lavoro, noi stiamo lavorando con il Parlamento europeo, come accennava Daniel a inizio puntata, Perché appunto crediamo che la garanzia giovane sia un primo passo. Le istituzioni europee hanno lavorato su questa misura, che è proprio rivolta a migliorare la condizione della disoccupazione giovanile in Europa, che è un problema non solo italiano, chiaramente, per molti stati è un grande problema. E l'evento al Parlamento, che probabilmente sarà il 28 di maggio, verterà anche su questa garanzia giovane. Noi dialogheremo anche con alcuni politici eurodeputati, con giornalisti italiani e di Bruxelles su questo tema, su questa garanzia giovani, che vi invitiamo a scoprire online. Ci sono dei video molto interessanti della Commissione Europea che spiegano come funziona. Secondo noi è una misura che dovrebbe essere, per esempio, già inserita nel contesto nazionale italiano. Perfetto, allora il 28 maggio, cari ascoltatori, mettetevelo già nell'agenda, e se no ovviamente continuate a seguire l'attività di Francesca Daniel in linea, e ovviamente gli altri amici, insomma, potete seguire e raggiungere loro in questa iniziativa. Direi che passiamo a un prossimo brano musicale, prima che continuiamo a parlare delle altre tre proposte, comunque per completare la lista dei cinque di cui stiamo parlando, dell'appello giovane. Però prima di fare quello, vi ricordo un attimo magari un dato, una cifra che è interessante ricordare, cioè che la spesa pubblica per la ricerca in Italia, giusto per menzionare un dato concreto, che è diminuita di quasi 8 punti percentuali da 2006 al 2010, e adesso attorno al 1.26 del PIL. La media europea è quasi il doppio, cioè si gira attorno del 2%. L'Italia ha delle cose da migliorare di sicuro, e torniamo da voi dopo il prossimo brano di un grandissimo della musica italiana che purtroppo non c'è più. Si tratta di Giorgio Gaber. Fortuna lo sono. Io non mi sento italiano, però lo sono, lo dice Giorgio Gaber. Purtroppo. Cominciamo col purtroppo. Daniel. Vabbè, onestamente io direi per fortuna, però con l'insieme Francesco un purtroppo. No, per fortuna. Purtroppo finché insomma non si affrontano i problemi, anche un po' purtroppo, ma per fortuna siamo italiani e per fortuna teniamo tanto al nostro paese, ed è per questo che abbiamo anche creato questo gruppo e ci teniamo insomma a questo legame. Ci sentiamo italiani fuori dall'Italia ancora di più, e credo che non avremmo avuto questa idea se per noi il nostro paese non fosse così importante. Certo. Ecco, siamo tornati in studio. Per chi ha acceso la radio proprio adesso, state ascoltando Radio Alma 101.9 e siete in compagnia di I Colori dell'Anima, come ogni lunedì sera dalle 21 alle 22, vedi, ha già fatto il cambio orario, io me lo sono perso. E insomma, oggi parliamo di della situazione dei giovani in Italia, soprattutto quello che un gruppo di giovani qui in Italia fa per migliorare qualcosa. E insomma, ci sono cinque proposte concrete sul tavolo, abbiamo cominciato a parlarne poco avanti. Vi ricordo l'investimento nell'istruzione, l'istruzione nella ricerca, formazione e ingresso nel mondo del lavoro, incentivi all'assunzione dei giovani, però ne rimangono ancora insomma qualche punto importante. Uno di questi è l'accesso agevolato al credito. Per quale motivo questo è così importante? Ma questo è importante perché si parla tanto dei nuovi imprenditori, i giovani imprenditori. Noi crediamo che le buone idee debbano essere sostenute, quindi le nuove imprese, le giovani imprese in Italia devono avere un sostegno da parte dello Stato, in particolare per quanto riguarda diciamo le agevolazioni fiscali, ma in generale tutti i giovani imprenditori e i lavoratori autonomi, che in Italia fanno molta fatica, perché specialmente chi è in partita IVA, e adesso io non so bene come sia la situazione in Belgio, però anche in Belgio è abbastanza complicato. Chi è autonomo paga moltissimo per tutto quello che è previdenza sociale, contributi. È così anche in Italia, e anzi addirittura c'è stato un periodo in cui facevano le partite IVA per i giovani, non so se è ancora così, però comunque i giovani che si mettono in proprio fanno molta fatica. chi vuole creare un'azienda ha bisogno di tanti anni per mettersi in pari, quindi per cominciare a fare utili. E secondo noi, insomma, lo Stato, se vuole che si produca all'interno dello Stato italiano e che ci siano nuove idee, io credo che l'Italia debba puntare assolutamente sull'innovazione, perché in altri settori ci bagnano il naso un po' tutti. Quello che abbiamo da vendere è la creatività. Gli italiani sono sempre stati un popolo di creativi e io credo che i giovani soprattutto siano molto creativi. Se c'è un sostegno da parte dello Stato, specialmente per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, forse ce la si può fare e un giovane italiano decide di rimanere in Italia invece che uscire dall'Italia per, diciamo, mettere in pratica le sue idee e realizzare qualche progetto. Non so cosa vuoi aggiungere, Daniel. No, sì, ma solo che dalle mie esperienze in Inghilterra ho visto che ci sono anche tante compagnie italiane che si sono create in Inghilterra e sono diffuse in tutto il mondo. Non so se avete mai preso l'autobus Teravision dell'aeroporto di Londra o anche, certo, anche le altre città. Questa è una compagnia italiana fondata dai giovani italiani, però a Londra, perché in Italia era troppo difficile creare questa impresa. Quindi ci sono esempi purtroppo di queste difficoltà. Credo che anche, insomma, la stazione Termini di Roma c'è la Teravision che ti aspetta, insomma. per molti italiani Teravision è un nome molto familiare, assolutamente. Purtroppo non l'hanno fatta in Italia. Esatto. Magari qualcun altro, qualche altra impresa, ecco, speriamo, insomma, nel futuro. Beh, appalti, cosa. E anche lì, magari prima di passare al quinto punto della lista, su questo accesso agevolato al credito per i giovani, diciamo che l'accesso al credito, o comunque gli imprenditori in generale, si lamentano della burocrazia, dei costi, eccetera, insomma, che non è facile per nessuno in Italia. Che cosa viene, cioè, c'è anche un punto dove entrare, c'è un po' di speranza, c'è qualcosa che si sta muovendo, qualcosa di concreto su cui puntare adesso? Cioè, la politica italiana è interessata alla questione? Beh, penso in generale, se ascoltiamo bene tutti i politici, i protagonisti in Italia adesso, stanno parlando della semplificazione dello Stato, di meno burocrazia, di tagli alle spese politiche, di tagli all'amministrazione. Vogliono anche abolire le province in Sicilia, di dove vengo, hanno già messo questa proposta avanti. Quindi in tanti sensi si stanno parlando finalmente di semplificare lo Stato e anche di togliere burocrazia, però non so se il Belgio è anche un bel esempio, però ci sono ancora veramente montagne di burocrazia da togliere in Italia. Però non vogliamo sempre lamentarci, perché in Italia credo che finalmente si sta parlando di questo tema. Poi un'altra cosa è che si farà qualcosa, però la trasparenza nelle amministrazioni credo che sia importante, insomma, per dei giovani che devono fare tutte queste procedure, mandare carte, richiedere permessi. È importante che per esempio ci siano le procedure online, che uno possa farlo senza andare in 10.000 uffici, perdere 5-6 giorni della settimana per farsi dare dei timbri o per produrre una montagna di carte che poi ti servono per aprire la tua azienda oppure per aprire il tuo negozio. Si spera che piano piano l'Italia arrivi, e probabilmente adesso, insomma, la marcia giusta è stata ingranata. Vediamo quanto tempo ci impiegheranno, ecco. Ecco, l'appello è stato fatto anche su questo punto e speriamo che viene ascoltato. Un'altra cosa molto rilevante per chi si trova come noi qui all'estero, in Belgio, è il diritto di voto quando si è all'estero e magari non si è proprio super stabilmente all'estero, però non si può tornare a casa per votare. Cioè, qual è la situazione e che cosa chiedete, Daniel? Vabbè, la situazione attuale è che i cittadini italiani residenti all'estero possono votare, possono votare ovviamente per le elezioni italiane. Questa è una cosa che non c'è da tantissimi anni, mi sembra che esiste dal 2006, se non sbaglio. Una cosa concreta di questo, una problematica soprattutto per i giovani, è che ci sono tantissimi giovani, tantissimi amici miei che vanno fuori, a Londra, vanno a Parigi, vanno a Bruxelles, che non si registrano all'AIRE per tanti motivi, no? Perché magari quando vieni per 6 mesi o per 9 mesi sei in ricerca di lavoro, hai un nuovo contratto di lavoro e non ti registri per l'anagrafe all'estero. E questo è un problema, perché poi non hai il diritto di voto dall'estero, anche se sei fuori all'estero. Quindi c'è stata una polemica quest'anno, per esempio, che gli studenti Erasmus, gli studenti italiani all'estero, non potevano votare, perché cioè per forza devono tornare fisicamente nel paese. Possiamo capire la logica di alcune di queste cose, però è una grande spesa anche tornare in Italia, certo. E anche fare tutto. È un po' anche una logica all'antica che fa quasi pensare a un certo Giuseppe Betlemme, eccetera, cioè di recarsi fisicamente. Il censimento. Esatto. Sì, sì. Quindi è un problema. In tanti paesi si può votare, per esempio, in Inghilterra si può votare via delega, quindi dai il voto delegato a un familiare, un parente, una persona che conosci, e possono votare per te, e sì. Già eviti, c'è una cosa pratica. Non so, si potrebbe anche votare elettronicamente in futuro. Però una cosa che io vorrei dire personalmente: sono stato in Italia la settimana scorsa, ho trovato la famiglia, ho trovato gli amici, e vedo però c'è una tendenza che sta crescendo, e che vedo che anche qualche partito, mi sembra che era il partito Fare di Oscar Giannino, che aveva proposto anche di togliere il diritto di voto per gli italiani all'estero. Perché c'è gente che iniziano a dire: ma scusa, se tu vivi fuori l'Italia, perché devi votare per chi mi comanda in Italia? Però io vorrei dire, secondo me bisogna difendere anche il diritto di voto degli italiani all'estero, perché tantissimi italiani anche in Belgio pagano ancora tasse in Italia. C'è tanta gente qui in Belgio che pagano l'IMU sulla prima, sulla seconda casa in Italia. Ci sono tante persone che hanno forti interessi economici in Italia, quindi non dimentichiamo questo fatto. Cioè io spero che questo diritto non viene attaccato per motivi politici. Per esempio, guardiamo i risultati elettorali in Belgio e in Europa. E un colore politico particolare ha vinto nettamente, e spero che i partiti e i movimenti politici che non hanno vinto, non hanno preso tanti voti, non strumentalizzino questa cosa per togliere questo diritto. Questa è una paura. Per noi è importante, insomma, per sia rendere più flessibile per chi è all'estero temporaneamente l'accesso al diritto di voto, e mantenerlo, perché comunque sempre più persone con la mobilità europea, con questo sogno europeo che è stato fortemente voluto e di cui noi siamo il risultato, perché penso che la nostra generazione sia una generazione che è stata messa al centro di questo movimento europeo, e quindi noi ne abbiamo tratto vantaggio. Io penso che noi tre, Daniel, Roland, insomma tutti e tre siamo figli di questa generazione e siamo felici di esserlo, però allo stesso tempo questo legame di cui abbiamo parlato anche prima con l'Italia deve essere mantenuto, perché appunto quando noi torneremo in Italia, se torneremo e anche dall'estero, insomma, per fare in modo che i nostri bisogni vengano ascoltati e che le nostre idee, le nostre proposte possano avere un tramite nel Parlamento italiano, noi crediamo che il voto debba rimanere e debba essere facilitato, specialmente per quei giovani che sono per esempio all'estero per motivi di studio, quindi per pochi mesi, o per motivi di lavoro senza dei contratti regolari, quindi non si possono registrare ai comuni e quindi non possono fare tutte le carte. Anche c'è chi non si registra perché non vuole perdere per esempio il sistema sanitario italiano. Certo, ci sono dei motivi validi per cui sì, però sì. Tutto questo concorre a diciamo perdere un diritto poi fondamentale, sì, che è quello dell'esercizio di voto. Perfetto. Do uno sguardo all'orologio che mi dice che siamo ci stiamo avviando verso la conclusione del programma, perciò è il momento di tirare un po' le somme e magari lanciare un ultimo messaggio, magari magari condividere qualcosa, cioè una motivazione personale che avete, una cosa che ancora non abbiamo detto, insomma un pensiero conclusivo di entrambi voi, e ovviamente avete anche l'opportunità di ricordare ancora una volta dove chi vuole, e credo che saranno tanti che stanno ascoltando e che abbiano voglia di supportare questa vostra iniziativa, insomma di ricordargli come e dove farlo. Ma io direi questo, io direi che la storia si sta ripetendo, gli italiani stanno tornando a diventare un popolo di emigrati, non è una cosa che critico, perché so esattamente che significa dover lasciare un paese e andare a cercare lavoro all'estero, però se l'Italia perde questa generazione di giovani, secondo me non c'è futuro per il paese nei prossimi 15-20 anni. Siamo uno dei paesi più vecchi nel mondo a livello demografico, e se non sosteniamo i giovani di questa generazione, secondo me un'Italia, onestamente, non so che l'Italia sarà in futuro, onestamente. Assolutamente, concordo con Daniel e dico che noi l'abbiamo fatto, lo stiamo facendo perché siamo appassionati, perché crediamo che sia giusto farlo e ci sentiamo parte di una comunità. Mm-hmm. Stare all'estero a volte vuol dire perdere un po' questo senso di comunità e fare qualcosa insieme per un bene comune, uno scopo comune. Nello stesso tempo noi speriamo che queste nostre richieste vengano condivise sia dai giovani in Italia ma anche dagli altri giovani all'estero. Mm-hmm. Quindi giovani italiani Londra, giovani italiani Parigi, giovani italiani Bruxelles e soprattutto a Bruxelles che è la capitale d'Europa. Certo. Perché mm-hmm. è in Europa che insomma si decidono le sorti dell'istruzione, le sorti delle politiche del lavoro. Quindi noi dalla capitale d'Europa chiediamo che i politici italiani diano attenzione ai giovani e a quello che i giovani hanno da dire, perché hanno molto da dire per tutte le esperienze che hanno fatto e che hanno potuto fare grazie anche alle istituzioni europee. Quindi noi speriamo che chi è in ascolto ci segua tramite Facebook, tramite Twitter, c'è una pagina Twitter anche, mm-hmm. Che magari sottoscriva l'appello giovane. Noi abbiamo, con l'appello giovane c'è una petizione. Quindi voi potete online firmare, mettere i vostri dati, firmare e sostenere la petizione. Sì, abbiamo molte firme, però ne vogliamo sempre certo, di più e questo ci rende legittimi. Ecco, insomma, direi che dovete proprio andare online e trovare, ricordiamo un attimo i nomi, c'è Appello Giovane, facebook.com, Appello Giovane, c'è anche invece Giovani Italiani Bruxelles, troverete anche su Facebook, anche su Google che andate direttamente sulla pagina web e c'è il Twitter che è Giovani Bruxelles, quindi Giovani BXL. Giovani BXL su Twitter, insomma, poi tra l'altro se vi dimenticate tutti questi URL e altro, andate su radioalma.eu/icolori dell'anima dove fra poco ritroverete anche questa puntata. Insomma, i colori dell'anima, direi che questa settimana si è colorata di verde, un verde speranza per un futuro migliore dell'Italia, con i giovani, non senza una generazione di giovani, speriamo bene. Ringrazio Francesca e Daniel per essere stati con noi. Grazie a te. Grazie a te. E ovviamente anche voi, cari ascoltatori, siete stati con noi.